Asperd.com. Il sito di cinema più Asperd del mondo. Ciao, oggi nasce il nuovo Asperd Podcast. Questa che senti non è la voce dell'Asperd perché l'Asperd non ha voce. Questa è la voce della moglie dell'Asperd. Vengo dall'est. In questo podcast si tratterà, più che altro, di letture di recensioni presenti su www.asperd.com. Se mi viene in mente qualcos'altro, si tratterà anche di qualcos'altro. Se ti viene in mente a te, scrivimi all'indirizzo asperd@hotmail.com. Mi sa che è meglio che faccio lo spelling dell'Asperd. Lo spelling è ASBRD. Intanto ti ringrazio per esserti registrato e ti saluto. Ciao! Evviva la Asperd!